colore sei, o meglio quale indosserai. Lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Buonasera, riproviamo. Non so se la voce va. Io non sento dalle cuffie, comunque tu senti Alessandro? Buonasera. Io sento perfettamente la ecco, vostra voce. Ecco, la tua voce la sento. Buonasera anche al ritorno dolce. Che visione! Anna Maria. Sera. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, Alessandro, ci puoi dire se le nostre voci si sentono? Tu vuoi dire, io vi sento, poi che tu questo, ci senti, che questo va nel, bene. Nell'etere uh-huh. sia, va ci bene. Si senta, questo è un altro discorso. Sì? Va bene. Va bene, e allora facciamo una chiacchierata fra di noi, se ci sentiamo, cioè, cosa, no? Allora, oggi 5 giugno 2017, il famoso trio Anna Maria Alessandro Rosanna si ritrova. Finalmente, dopo un po' di tempo, e diamo naturalmente il benvenuto a tutti i radioascoltatori che si fossero sintonizzati con noi, con la trasmissione de I colori dell'anima, che come sapete va in onda il lunedì dalle 21 alle 22. Allora, oggi è anche giornata di vacanza, giusto? Sì, oggi ne abbiamo approfittato spudoratamente. Mm-hmm. Siamo in vacanza, come penso tutto il Belgio. Il non Belgio. In Italia, non è festa in Italia. Ma vabbè, l'Italia ha festeggiato venerdì, quindi basta. Vero. E noi oggi ci siamo riposati prima di riprendere domani con il lavoro. Perché siamo tanto stanchi, no? Assolutamente. Sì, un po', dai, tanto no, un poi po'. Queste giornate che si allungano, devi star fuori a bere e mangiare fino a tarda serata, perché non vedi la fine di una giornata. Non puoi andare a letto, è giorno, esatto. Si fa? Pensa a mia moglie che mi dice, fino a quando non diventa buio non si mangia. Vabbè. No, Alessandro. vabbè, sono capitato male, so. Vabbè, che dobbiamo fare? Vabbè, tu sei un nordico, hai sposato una donna del sud, è ovvio. E che cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Perché ma quindi, scusa, vuol dire che d'inverno mangiate cenate alle 5? No, quello già mai, è peccato grave. Allora quindi questa regola vale solo per l'estate? No, le regole in questo caso valgono sempre soltanto per lei. Per chi le ha inventate, capito? Va bene. Ma questo è un classico, così funziona, Alessandro. Sì, sì, ma infatti ogni volta. Ma infatti ogni volta io mi meraviglio. A casa, sì. Dalle mie parti si dice, comanda la Vergara. La Vergara? La Vergara, la padrona di casa. Va bene. Quindi non c'è no, comunque salutiamo affettuosamente la moglie di Alessandro, che io non ho il piacere di conoscere, ma insomma. E magari speriamo di averla qui una sera in radio. Ma lei fa tanto, ma è timidona, sai. No, come dice lei, io mi metto scorno a parlare in radio. Ma lo sai che anche io ero timidissima? Ero timidissima, le prime volte che sono venuta con Rosanna, circa forse 5-6 anni fa, non ricordo bene. E allora Rosanna, siccome io non sapevo cosa fare, mi dava dei testi da leggere, e così almeno io non dovevo improvvisare, e mi diceva, leggi e basta. Va bene, senti, facciamo subito lo stacco musicale, così almeno ci riposiamo ancora un po'. E verifichiamo i microfoni. Dai. Va bene. Eccoci qua con i colori dell'anima su Radio Alma 101. Meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Senti Alessandro, non mi fare gli scherzetti, o la mia voce o lo stacchetto musicale, mica tutte e due insieme. Ma te l'ho detto. Che mi hai detto? Ho detto spazio, la musica, poi no, mi hai detto 3-2-1, che è 3-2-1, io pensavo di poter parlare. Vabbè, allora, dunque, Alessandro, Anna Maria e adesso anche un ospite. Buonasera. Buonasera. Allora, un ospite che si chiama Vladimiro, che ci ha appena raggiunto qui ai Colori dell'Anima e con il quale questa sera parleremo di scherma. Perfetto. Allora, intanto la scherma perché? Perché è una tua passione, giusto? Sì, è una passione che ho cominciato ad avere quando ero piccolo verso i 9 anni praticamente mio padre non sapeva che farmi fare come sport, io avevo anche dei problemi di, diciamo, attenzione a scuola, e quindi mio padre, rivolgendosi a un suo collega, gli domandò: ma tu mi puoi consigliare qualcosa? E il collega gli consiglia lo schermo come sport. Ma un po' di sano calcetto, no? Sai, il calcetto io... Non sei bravo. Vabbè, no, dillo, vabbè, non è un problema, non è un peccato grave, va bene. Questo significa che tu sei un amante di calcetto, diccelo, Alessandro. No, ma neanche per sogno. Non ho anche visto la finale di Champions, io. No, neanche io. E allora vedi? Vabbè, ma io non faccio testo, io solo sport da tavola. Da tavola? Ah, ping pong, quindi? No, coltello e forchetta. Ma il tennis da tavolo? Perché, diciamo, volevo distinguermi dagli altri, quindi sai, il calcetto, il calcio... Lo sport troppo inflazionato, quindi ho scelto qualcosa di particolare. Ma allora iniziamo dalle basi. In quanti si gioca a scherma? Non si dice giocare a scherma, si dice tirare. Eccolo lì, vedi? Sapevo io. Ci sono delle, diciamo, dei. Bisogna rispettare comunque la nomenclatura della scherma. Non si può dire giocare, si dice tirare, e non sono dei match ma sono degli assalti, e così via dicendo. Adesso poi, in base alle domande che mi farete, vi spiegherò tutta la nomenclatura. Già assalti dice tutto, no? sì, sembra aggressivo, dà l'idea di aggressività. Effettivamente sì, effettivamente l'assalto sembra che bisogna praticamente attaccare qualcuno, ma non è così, è più che altro una difesa. La scherma. Quindi, tu hai cominciato da piccolino questo sport. Allora, io ho iniziato a fare scherma quando avevo 9 anni. 9 anni. E sono stato uno dei primi nella mia, diciamo, sala, la sala scherma di Modica, una piccola città in provincia di Ragusa. Sì, bellissima. Sì. Famoso il cioccolato di Modica. Giustamente, e famosa anche la scherma di Modica. E la scherma, tra l'altro, di Modica ha dato anche un campione olimpionico che è Giorgio Abra, non so se l'avete lo conoscete. No. E comunque anche il maestro di scherma, che fu il mio maestro, che adesso è presidente della Federazione Italiana Scherma. Quindi, comunque, continuando. E quindi tu hai cominciato da bambino, poi hai continuato, e qui a Bruxelles continui questa tua passione? Allora, perché noi siamo completamente all'oscuro, quindi noi facciamo domande che sembrerebbero stupide, però che ne so io? Allora, io sono anche un po' oscurati. Un po' oscurati? Accendi la luce? Facciamo così, adesso ci dici la prima gara che hai fatto, se te la ricordi, e l'ultima che hai fatto. Stacco musicale e poi ripartiamo dall'ultima, dai. Ok, allora, la prima gara che ho fatto era una gara regionale a Mazara del Vallo. E avevi 9 Avevo anni. Avevo 9 anni e sono arrivato terzo. Il che significa che subito dopo che tu hai iniziato hai già potuto partecipare a delle gare? Sì. Quindi hai imparato molto velocemente. Ma diciamo che avevo 9 anni, già passato, avevo quasi 10 anni. Dopo un anno di allenamento facevamo già delle gare. Dopo un anno di allenamento? Complimenti. Sì. Io adesso non so quali sono le problematiche tecniche, immagino che ci sia una tecnica, una preparazione, eccetera. Insomma, dopo un anno mi sembra... Sì, dopo un anno... Veramente comunque 9 anni bisogna comunque pensare che si è ancora bambini e il livello scarmistico è molto basso. Quindi alla fine la scherma che si fa è rudimentale, o meglio, si tira in modo basico. Quindi non bisogna comunque essere dei veri professionisti. Si comincia a essere dei professionisti verso i 14, 15, 16 anni, e poi verso i 20 anni si arriva alla maturità schermistica e si ci può anche, diciamo, se si hanno dei buoni risultati a livello nazionale, si fanno i mondiali, si fanno gli europei e si fanno poi gli olimpiadi. La maturità si raggiunge verso i 24 o 25 anni. E quindi, come diceva Alessandro, questa era stata la tua prima gara tra 9 e 10 anni, invece l'ultima? L'ultima gara è stata una settimana fa. Uh-huh. Ah, quindi vieni fresco. A Chiavari, sì, ho fatto gli europei master. Uh-huh. Quindi... dove mi sono divertito, nel senso che ho potuto praticamente conoscere e incontrare vecchi amici dei club italiani con cui tiravo quando avevo 24-26 anni. Ho conosciuto anche delle persone che conoscevo grazie alla scherma, alla sala scherma di Bruxelles, perché nella sala scherma di Bruxelles abbiamo possibilità di incontrare anche altre nazionalità, tedeschi, francesi, olandesi. Che questa è la, diciamo che la particolarità di Bruxelles, che permette è la particolarità appunto di incontrare persone di altre nazionalità facendo uno sport che ci appassiona, o a un altro tipo di attività che sia. Questo dipende. Diciamolo, Bruxelles almeno questo ce lo permette. Sì, infatti. Oltre a incontrare anche praticamente il mio vecchio maestro. Ah, sì, hai potuto incontrare anche lui. Fantastico. E quindi ho fatto anche un buon risultato secondo i miei, diciamo, compagni di sala, secondo me no, però questo questo vuol dire sei un perfezionista, di la verità. Sì. Va bene. Beh. Ci fermiamo su quest'ultima gara e riprenderemo dopo lo stacco musicale. Alessandro, anche tu sei un professionista. Beh, chiaro. Allora, stiamo parlando di scherma nella trasmissione dei colori dell'anima di oggi, 5 giugno 2017, con Vladimiro, ospite qui in studio, con Alessandro, Anna Maria, Rosanna e... ricominciamo appunto dall'ultima gara che hai fatto, quindi una settimana fa. Questa gara l'hai fatta a Chiavari, dicevi? Sì. E non eri però soddisfattissimo? Avresti potuto fare meglio? Sì, ma noi gli schermidori siamo abbastanza praticamente perfezionisti e cerchiamo sempre di andare oltre i nostri limiti. E questa è una caratteristica di questo sport, che è uno sport appassionante, perché dobbiamo praticamente sempre... cercare di studiare l'avversario e mettere la stoccata, cioè toccarlo, nonostante lui si difenda in tutte le maniere. E comunque è appassionante, perché è come un gioco a scacchi. E di fronte a te c'hai qualcuno che cerca di difendersi, qualcuno che cerca di toccarti, e fai tutto per praticamente... eluderti o eludere le tue mosse, ed è qualcosa di particolare. E quindi quando uno perde un assalto all'ultimo minuto, all'ultimo punto, facendo un errore tattico, non si è mai soddisfatti. Uh-huh. Senti, stavi dicendo comunque che appunto a questi campionati europei a cui hai partecipato, i paesi più forti nel campo della scherma sono l'Italia, la Francia e la Russia. La Russia, sì. Uh-huh. E, nel senso che hanno una tradizione di scherma. Allora, l'Italia, la Francia e la Russia hanno una tradizione storica, nel senso che hanno delle scuole più importanti, oltre ad avere anche il maggior numero di schermidori, cioè di persone, di soci che praticano questo sport, e hanno anche comunque una tradizione a livello storico e schermistico, nel senso che tradizionalmente Francia e Italia sono individuati come quei paesi a cui quei paesi in cui c'era quella la figura storica del moschettiere, la figura storica del moschettiere, D'Artagnan. Questo siamo preparati, D'Artagnan lo conosciamo tutti. Alla corte di Luigi XIV, non mi ricordo più, comunque adesso faccio confusione perché non è che sia... Poco importa. E l'Italia comunque parimenti aveva una buona tradizione anche medievale in quest'arma. Ho una domanda che adesso mi passa così per la testa. Tu devi fare una gara con un avversario con cui non hai mai, non ti sei mai confrontato. Studi prima il tuo avversario o lì per lì? Allora. Cioè, hai un'idea della persona che devi incontrare? Una persona magari è già conosciuta. In generale la tattica schermistica è completamente diversa dalla tattica sportiva classica, come può essere la tattica futbolistica. Non si studia quasi mai l'avversario, molto spesso non si conosce l'avversario. E bisogna praticamente più che altro cercare di conoscere se stessi, allenarsi sui propri errori. Quindi la preparazione fisica, la preparazione, quella che è importante nella scherma, la preparazione fisica che c'è, che viene prima dell'assalto, quindi dell'incontro, e l'incontro stesso con un avversario qualsiasi. Quindi quello che si può fare è molto spesso migliorare dai propri errori, correggere i propri errori, perché effettivamente quando si fa un assalto di scherma e ci sono due schermitori che sono allo stesso livello, e vince chi riesce a sfruttare gli errori dell'altro. Quindi significa che c'è una grossa battaglia psicologica, perdo, tutto sì, questo. Io perdo perché ho fatto degli errori e il mio avversario si è reso conto degli errori che ho fatto. E anche per questo che non sono contento degli europei, perché ho praticamente permesso al mio avversario, nell'ultima stoccata, 9-9, ho ritirato il braccio all'indietro e il mio avversario ha approfittato infilandomi la stoccata, cioè mettendomi il punto. Quindi scusa, 9-9, quanti punti si danno a testa? Ecco, adesso tu mi dai l'occasione per un pochettino parlare dell'assalto. L'assalto dura un tempo standard che è 3 minuti più 3 minuti. E bisogna raggiungere un punteggio limite che è 10 stoccate o 15 stoccate. 10 stoccate per la categoria master e 15 stoccate per la categoria assoluti. Allora, ci sono diverse categorie, più diciamo, vi siete resi conto, comunque parliamo di categorie, ci sono diverse categorie di età. Gli assoluti sono tutte le età mischiate. Poi ci sono i senior che vanno dai 20 fino ai 49 anni, anche di più, 59 anni. Poi ci sono i master di prima categoria che vanno dai 40 ai 49, seconda categoria dai 50 ai 59. E poi c'è la pensione. E poi c'è la pensione, bene. Poi ci sono gli anziani. Gli anziani, giustamente. E niente, quindi per i master, quindi i punti totali da raggiungere sono 10, per gli altri sono 15. E io in Belgio faccio gli assoluti, senior, e in generale in Italia faccio i master. Quindi è per questo che parlo, nel mio caso, quello che ho descritto, in un assalto totale di 10 punti, su un tempo totale di 6 più 6, e si può andare supplementari come nel football e fare un minuto supplementare nel quale si decide chi vince. Se il risultato resta in parità, c'è una priorità su uno dei due e chi ha la priorità vince. La priorità è data da che cosa? E la dalla bellezza. No, la priorità è data all'inizio dell'assalto a chi fa l'attacco, effettivamente. Insomma, quindi io da tutto ciò capisco che non capisco assolutamente nulla. Cioè. Allora, te la faccio facile, il primo che arriva a 10, poi quando giocavi a calcetto all'oratorio. Ma io non ci giocavo a calcetto all'oratorio. Manco ci andava l'oratorio, immagina. E poi, scusa, però quindi ogni assalto 3 minuti al massimo. Non ogni assalto 3 minuti perché l'assalto è dato al punto. Diciamo che in totale sono 3 minuti, poi c'è una pausa di un minuto per far riposare i due avversari, poi si ricomincia con altri 3 minuti. Ma quindi, se non si raggiunge il risultato finale di 10 a o 15 a, quindi nessuno dei due ha raggiunto il massimo, si va ai supplementari. Quindi per ogni stoccata potrebbe essere anche il punto nullo, perché nessuno dei due ha... Il punto nullo non esiste, esiste un doppio punto, perché diciamo adesso dovremmo anche parlare delle altre due armi. Noi stiamo parlando comunque della mia arma, che è la spada, e che è un'arma che prevede diciamo il punto su tutto il corpo. Questo è quindi il doppio punto, un po' come il punto croce. Oddio, sì, un po' meno complicato, diciamo. Però io faccio domande agli ignoranti, io sono l'uomo della strada. Ma il punto croce sì, ci incrociamo le spade e vedi, c'è un dritto rovescio sempre, no? Vabbè. Vogliamo pensarci su questo un attimo? Allora, riflettiamoci un po' su, Alessandro. Vi metto questo e voi al di là del vetro vi mettete a parlare. Sarebbe meglio comunque definire anche quali sono le armi nella scherma e quindi vi potrò comunque descrivere tutto. Ok, dopo ce lo spieghi, visto che siamo veramente all'oscuro di tutto. Allora, stiamo parlando di scherma ai colori dell'anima e abbiamo qui in studio come ospite Vladimiro. E a proposito di armi, quindi illuminaci un po' sulle armi della scherma. Quindi fondamentalmente abbiamo tre armi, che sono la spada, il fioretto e la sciabola. E poi ce n'è una meno conosciuta e più, che è l'uncinetto. Però gli assalti si fanno ravvicinati. Perché scusa, il punto a croce si fa col lago, adesso non confondiamo. Alessandro, fai un corso accelerato. Poi ci spiegherai tu, Alessandro. Ma questo fa falegname, non da... Ma da parlatrice. Ci spiegherai poi tu le regole dell'orlo, beh, certo. Perfetto. Che te le faccio io. Ma io spiego le regole della scherma classica, tu spiegherai le regole dell'orlo. Allora, quindi sì. le tre armi sono diverse, perché comunque l'obiettivo è diverso. Le regole sono più o meno uguali, ma il punto si mette in zone diverse del corpo. Quindi la spada è l'arma della guerra per eccellenza, mentre il fioretto è l'arma del duello. E la sciabola, diciamo che è una terza arma, diciamo, tra il duello e la guerra. Diciamo. Come ho detto, la differenza sta nell'obiettivo e nel modo di mettere comunque anche le stuccate, i punti. Allora, nella spada l'arma è un po' più lunga rispetto al fioretto e la lama è un po' più, diciamo, resistente, più grossa, pesa di più l'arma, appunto perché è un'arma di guerra. E il punto si mette su tutto il corpo, quindi il bersaglio valido non importa dove si tocca, dall'ultimo capello della testa fino al punto, alla punta del piede, è punto. E in ogni caso si possono avere o punti singoli, cioè io tocco l'avversario, punto mio, l'avversario mi tocca, punto suo, o tocchiamo in contemporanea, punto doppio, ok? Molto importante nella spada è l'attacco diretto. Cioè? Cioè, tu puoi praticamente mettere il punto attaccando direttamente l'avversario, mentre nelle altre due armi il punto viene messo sulla parata risposta. Questa è la grande differenza tra spada, sciabola e fioretto. La grande differenza nell'attacco, diciamo, nel fare scherma. L'altra differenza sta nell'obiettivo. Per il fioretto l'obiettivo è il corpetto, quindi le braccia sono escluse, la testa anche, quindi la maschera non è, diciamo, contata come punto, e le gambe. E il punto viene messo su, non sulla, diciamo, non sull'attacco diretto, ma sulla parata risposta. Quindi tecnicamente quale di queste tre armi è più complicata da utilizzare? Allora, la più difficile e la più complessa è il fioretto. Il fioretto. Perché bisogna comunque, anche a livello di arbitraggio, è molto più difficile dare il punto a uno dei due contendenti. Ecco, come si fa a vedere esattamente, scusa, perché io credo aver visto passare qualcosa in TV, punto, cioè non lo so, come si fa a essere sicuri che ci sia il punto, che sia stato fatto esatto, cioè l'arbitro come fa? Perché allora, immagino che sia una certa distanza comunque. Avete visto anche che i due schermidori sono attaccati a un filo. L'abbiamo visto, sì, però l'abbiamo visto, esatto. In generale quando si osserva comunque un assalto in TV come alle Olimpiadi, c'è un apparecchio con delle luci rosse e verdi che si accendono di fronte, diciamo giusto accanto alla pedana o diciamo di fronte agli schermitori, o ci sono le luci rosse, bianche e verdi che si accendono. Quindi il verde e il rosso sono i punti rispettivi di uno dell'altro schermidore. Okay. Nella spada esiste soltanto il colore, il punto valido, il bersaglio valido, quindi ci si avrà o una volta quando tocca un avversario il rosso che si accende, il verde che si accende, o nel caso in cui il toccano tutti e due i colori che si accendono, e in questo caso appunto doppio. Nel caso del fioretto, invece, essendoci un bersaglio non valido, che è tutto quello che esclude il bersaglio valido, cioè il corpetto, il bianco, e una luce bianca, metterà in evidenza che lo schermitore ha toccato il, diciamo, l'avversario nel bersaglio non valido. L'arbitro, tra l'altro, deve descrivere in modo il più preciso possibile l'azione che l'attaccante fa quando mette il punto sull'avversario. Questa è la parte più difficile. Bisogna comunque riuscire a capire che tipo di movimento fai quando tocchi l'avversario. E i movimenti sono molteplici, possono essere un attacco diretto, cavazione, ottava, diretto al corpetto, quarta, diretto al corpetto. Adesso non stiamo, diciamo, non possiamo comunque descrivere tutte le azioni perché sono... immagino che siano complesse, sono tantissime, ci siamo persi dopo le prime tre noi. Quindi, gli alberi che sono formati in modo specifico comunque hanno come dovere il descrivere comunque l'attacco e giustificare il punto, soprattutto nel fioretto. Se non è fioretto, una parata sul mio attacco, una parata risposta può darmi il punto. Se il punto è doppio. Ma quando per esempio nel fioretto uno tocca il busto, che appunto non dà punti, viene penalizzato? Il busto dà punto, eh? Ah, dà punto. Le braccia, scusa, è solo il busto che bisogna toccare. Allora, se uno tocca la gamba o il braccio, perde un punto? No. Ah, no. Se valido, l'assalto viene messo in pausa e poi viene ripreso. Ho capito. Allora, questo vuol dire quindi che l'abbigliamento è tutto completamente, non so... Non... Bianco? No, bianco, ok, ma è spesso, cioè la spada non può entrare in nessun modo nel tuo corpo, quindi immagino che sia, abbia diciamo uno spessore... Che, adesso andiamo più che altro nel dettaglio tecnico di come sono costruite le armi e di come sono fatti le divise. Allora, giustamente, l'arma della spada è una lama che non è tagliente, ma diciamo che comunque è abbastanza robusta, e tecnicamente si rompe in un certo modo, e in modo tale che quando si rompe non può infilzare l'avversario, quindi... Quindi è previsto che si possa rompere, è previsto che si possa che rompere, succede però in un certo punto della sua lunghezza, quindi non si rompe mai in punta, ma si rompe diciamo a due terzi della punta massimo, a un terzo della punta, e soprattutto si rompe in flessione, quindi significa che quando io faccio l'attacco e oppongo la mia lama poggio la mia lama sull'avversario, se la lama diciamo si estende troppo si spezza, ma in modo tale che la parte restante vada fuori, quindi non c'è mai quasi mai non c'è quasi mai un contatto con l'avversario, almeno non è mai successo. E la punta della spada del fioretto sono fatte in modo tale che c'è un piccolo bottone che permette di, diciamo, ogni volta che tocchiamo accendere la luce verde e rossa dell'apparecchio, e diciamo le divise sono fatte di un tessuto particolare che hanno una resistenza di adesso non mi ricordo quanti newton, ma una resistenza tale che comunque anche se la spada dovesse rompersi non riuscirebbe a penetrare la divisa. Sì, immagino che sia previsto tutto perché nessuno si faccia male, specialmente se... Si spiega anche perché la maschera è una maschera che deve essere controllata periodicamente, è una maschera comunque che riesce a subire i colpi e delle stoccate sia nelle tre armi, quindi diciamo che è uno sport molto sicuro, non è mai successo che io sappia, non sono mai successi incidenti gravi. Domanda pratica, è costoso? Allora, se si fa scherma a livello agonistico, come nel mio caso, diciamo che bisogna prevedere quantomeno una spesa di 1000 euro l'anno. Questo perché bisogna cambiare comunque l'attrezzatura periodicamente, soprattutto la maschera, e una maschera costa dai 150 ai 200 euro. La spada costa, la lama costa sui 125-130 euro e nel caso mio si rompono due lame ogni anno, quindi io cambio di solito due lame l'anno, quindi sono altri 250 euro, la divisa costa sui 500 euro e poi ci sono le trasferte, le gare e tutto quanto, e poi bisogna pagare anche comunque una quota associativa alla sala dove si pratica la scherma, che mediamente di 500 euro l'anno. Sì. Giustamente per noi che siamo adulti costa molto di più, per i bambini che iniziano è molto più facile. E ci sono comunque delle agevolazioni. E abbiamo parlato del fioretto e della spada, com'è l'altra arma? La sciabola, non mi ricordo se l'hai detto, ma no. Può toccare tutte le parti del corpo? Allora, la sciabola rispetto alla spada e rispetto al fioretto può portare come bersaglio valido, porta il bersaglio valido a tutto il corpo tramite le gambe, tranne le gambe, scusate. E soprattutto il colpo viene dato in modo non diretto ma in modo laterale. Quindi bisogna comunque pensare che spada e fioretto, il punto viene messo in attacco diretto con la punta dell'arma. Quindi per dare praticamente una spiegazione un po' più semplicistica, con il fioretto e con la spada infilziamo il corpo dell'avversario, mentre con la sciabola diciamo che tagliamo il corpo dell'avversario di netto. Dai, quindi abbiamo visto tutti i film dei pirati, no? Con la sciabola. E viene il punto viene dato in modo diretto sul capo, quindi uno delle mosse classiche di sciabola è un attacco laterale sul capo, o a destra o a sinistra. Un attacco laterale sul braccio, a destra e a sinistra. Sul capo o sul collo? Sul collo. Quindi che vuol dire? Che anche al collo bisogna avere una protezione particolarmente resistente, visto che il collo è una parte delicata del corpo. La maschera è una protezione che prende anche il collo. Ok, d'accordo. E giustamente nel caso della sciabola, visto che comunque il colpo portato al collo è uno dei più classici, perché comunque avete mica presente i film dei pirati quando con la sciabola si taglia la testa dell'avversario. E infatti tu conoscerai molti giocatori di sciabola, molti tiratori di sciabola senza testa, no? Sì. Conoscevo più che altro, non conoscevo. Vabbè. Ed eccoci tornati su Radio Alma. Ah, ti ho bloccato ancora? Ah, scusa! No, prego, prego. Ragazzi, stasera finirete per litigare voi due, eh? No, io non vengo più. La prossima volta che porto due spade, una la do a te, Alessandro, e l'altra la do... Io sempre con l'uncinetto, Rosanna. Guarda che mi hai incuriosita, Ma poi soprattutto, come dicevi all'inizio, sul fatto che la scherma, al di là di essere uno sport che chiaramente fa bene proprio per l'attività fisica legata allo sport, sono stata colpita dal fatto che aiuta il coordinamento dei movimenti. Quante volte sei stata colpita? Vabbè, tante. Sicuramente se giocassi sarei colpita tante volte. Comunque sì, che aiuta il coordinamento, quindi va consigliato in realtà, oltre che... come molti altri sport, tipo il calcio, può essere una cosa simpatica, bella per aiutare i ragazzi a stare all'aria aperta magari, però in questo caso può aiutare anche a risolvere dei problemi di tipo fisico. Sì, allora la scherma aiuta soprattutto i bambini, perché sono i bambini quelli che hanno problemi di coordinamento all'inizio, quando si ha 8-9 anni, molto spesso si ha problemi a... coordinare braccia, gambe, ma anche quando si hanno problemi di coordinare la parola, quindi molto spesso portiamo il bambino al logopedista. E la scherma aiuta a coordinare i movimenti, e il coordinamento dei movimenti si riflette anche sul comportamento, sulla parola e su tutte queste altre cose. Io, come ho detto, quando ero piccolo, avevo 9 anni, avevo problemi sia di distrazione, ero molto distratto a scuola, e avevo anche problemi di coordinamento fisico, non riuscivo a coordinare bene le braccia, e questo si vedeva soprattutto quando dovevo praticamente gesticolare o, uh-huh. e gesticolavo e in modo strano e cosa che gli italiani fanno tutti. Cioè, mi sembra strano che ti dicano hai problemi nel gesticolare. Invece adesso devo dire la verità, quando faccio scherma gesticolo un po' troppo, gesticolo in modo coordinato, tutti i miei amici della strada mi prendono in giro, si mettono a ridere perché è classico. Io sono sulla pedana, prima di iniziare diciamo l'assalto, inizio a parlare e diciamo attirando l'ira del maestro, dei compagni e così via dicendo. Quindi diciamo che la scherma mi ha aiutato, ma mi sa che mi ha aiutato troppo. Siamo andati al di là giustamente dei risultati alla fine. Quindi io lo consiglio a tutti i diciamo quei genitori che magari hanno dei bambini che hanno problemi di attenzione, perché comunque la scherma permette diciamo di focalizzare l'attenzione, perché comunque devi essere molto attento a come metti la stoccata, come rispondi agli attacchi dell'avversario, e nel caso anche in cui il bambino comunque abbia problemi di diciamo di coordinazione, perché è fondamentale nella scherma a reagire in base al movimento dell'avversario, quindi ha una reazione e corrisponde una reazione, e questo è fondamentale. Scusa, una domanda pratica, se per caso ci fosse qualcuno che ci sta ascoltando, che ha un bambino che volesse cominciare questo tipo di attività, qui a Bruxelles è possibile farlo? Dove ci si può rivolgere? Allora, a Bruxelles sui 9 comuni ci sono più o meno 9 sale di scherma. Io posso consigliare la sala scherma su cui mi appoggio, a cui faccio riferimento a Bruxelles, che è la Maison de l'Escrime, che si trova più o meno nel Parc Sportif La Tilleule. Eventualmente io lascerò poi comunque le coordinate, ma in quale comune? Penso che sia Watermabrafort. Uh-huh. E che è il club di scherma più importante di Bruxelles e il secondo club di scherma più importante del Belgio. Il maestro di spada è un maestro russo, il maestro di fioretto è un maestro belga molto, molto in gamba, che ha, diciamo, è un pedagogo tra l'altro, quindi segue anche i bambini direttamente. Il maestro di spada, che è il mio maestro, è russo, segue diciamo gli schermitori che fanno le competizioni, mentre il belga, che è un pedagogo, segue i ragazzi che fanno fioretto e spada e che iniziano a fare scherma da piccoli. Questo significa che lo stesso maestro può seguirti dall'inizio fino a tutta la tua carriera sportiva? Fino a quando in vita la ti può seguire. Persona che si, sì, che sì, ti sì. Segue. E se resti nel stesso club, sì. In linea di massima la stessa persona che ti fa crescere nell'ambito sportivo. Nell'ambito sportivo, sì, sì. Senti, uno che tira di scherma, che parole, che suoni emette mentre tira? Che ne so? Non so. Non lo vogliamo sapere. Ma perché, scusa? Allora, no, la domanda è pertinente. Io devo dire che effettivamente noi italiani siamo particolari in questo, nel senso uh-huh. che quando mettiamo la stoccata o vinciamo un assalto, gridiamo, ma non gridiamo in modo normale. No? Io, per esempio, ho un grido che è là. Cioè io metto però gridando. Quindi ogni schermitore ha un suo verso particolare. Ogni volta che mette una stoccata grida, giustamente. Il grido di guerra, insomma. Come se fosse un grido di guerra, sì sì sì. Ma è spettacolare, perché effettivamente serve per scaricare l'adrenalina, sì, e tutto lo stress dell'assalto, perché l'assalto è molto molto duro e richiede molte energie. E alla fine concentrazione, energia, deve essere molto stressante, in effetti. Bene, Vladimiro, siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi. È stato molto interessante imparare così questo sport che effettivamente non è molto comune. Giustamente. Ed è interessante appunto proporlo ai bambini, ai ragazzi come sport globale che aiuta non soltanto il corpo ma anche la parte psicologica. E quindi grazie di averci così illuminati, speriamo magari... Si dice toccati. Ah, toccati. Io non volevo dirlo però, grazie Alessandro. Quindi il prossimo... Ogni tanto si sveglia Alessandro. E sono impegnato in regia, scegliere le migliori canzoni solo per voi. Quindi la prossima volta che c'è uno stage gratuito, Rosanna e Anna Maria in prima fila. Va bene, d'accordo. Volentieri, sono molto curiosa, veramente. E grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, che hanno ascoltato I Colori dell'Anima, e naturalmente rimanete sintonizzati con Radio Alma 101.9. Ciao a tutti, buona serata, buonanotte, buona serata. Grazie Vladimiro di essere venuto, ci siamo fatti anche due risate pur parlando grazie di cose serie. Grazie a voi per avermi dato la possibilità di parlare alla scherma. Grazie al nostro regista Alessandro. Grazie a voi per la bella presenza. Grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Buona serata.